Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. Ma Troisi numero uno, anche Madonna, Benigni, ma Troisi fantastico, fantastico, ci manca. Buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ricordatevi allora, che dovete morire. Cioè, ma ascolta, ma scusa, ma se tu li spaventi già così. No, allora, ridendo, ma ve lo dovete ricordare che memento tocca mori. No, allora, perché memento mori? Perché questo è un insegnamento, cioè ti permette di vivere meglio, ecco, di prepararti anche quel momento che poi tutti attraversiamo con noi e con i nostri amici animali. Quindi in questa trasmissione che Chiedimi se sono felice, sappiamo bene che il tema della felicità, sappiamo bene, forse qualcuno l'avrà trascurato, però felicità e morte sono collegati. Certo. E quello che ci possono insegnare anche gli animali sulla morte è davvero tanto. Chissà quanta gente adesso sta imparando questa roba, se sta toccando da qualche parte, ecco, fa le cominciamo a fare i cornetti. Però il nostro scopo cos'è? Esatto. Oggi avremo in trasmissione, attenzione, il maestro Battiato, grande. Franco Battiato, perché è uscito da poco il mio mito, il suo DVD con Attraversando il Bardo, dal suo libro Attraversando il Bardo. Quindi è una puntata seria, ma se vuoi anche un po' umoristica, che vuole aggiungere consapevolezza a questo momento così delicato. Esatto. Può insegnarci così tanto. Parlandone seriamente ma con ironia. Allora, il primo ospite al quale io tengo moltissimo, Angelo, anche è così, c'è un monaco praticante di vegetarianesimo, un padre praticante di vegetarianesimo e meditazione. Ha collaborato appunto con Franco Battiato alla realizzazione del film di cui vi parlavamo, Attraversando il Bardo, Sguardi sull'aldilà, e ha fondatore di un'associazione che si chiama Tutto è Vita. È filosofo, è dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia, psicologia applicata, insomma. Ma quello è il dipartimento in cui lui insegna studi sulla morte, Death Studies and the End of Life, studi sulla morte e il morire per il sostegno dell'accompagnamento presso l'Università degli Studi di Padova. E chi più ne ha più ne metta, siamo al telefono con Guidalberto Bormolini. Esattamente, sono qua. Ma eccoci. Che presentazione questa volta. Fa impressione, eh? Senti, ma c'è questa cosa emblematica, c'è un'associazione che si occupa del tema della morte, la chiami Tutto è Vita. Esattamente, tra l'altro questa associazione il nome lo deve a un carissimo amico che è morto giovane di tumore, che era un cantante di un gruppo reggae, e ha composto lui questa canzone, Tutto è Vita. Dai. Sì, poco prima di morire. Diceva, come quando ero nel grembo, mi sembrava di morire perché sono stato catapultato fuori dal mio ambiente, e invece tutti festeggiavano il mio ingresso di là come una festa di vita. Allo stesso modo, adesso che il mio corpo sta morendo, probabilmente di là qualcuno mi festeggia, e allora mi accorgo che tutto è vita. Senti Guidalberto, ma io sono cattolica, io credo nel paradiso, però nell'aldilà, no? In una vita oltre la vita, se ne parla quasi poco, però, di quello che c'è dopo la morte, no? Ho un'impressione mia. Sì, siamo in un momento in cui c'è un grande tabù sul tema della morte. La morte è esclusa da grande comunicazione e anche dalle rappresentazioni culturali. C'è stato uno studioso che ha notato che la percentuale di testi che parlano della morte anche in campo medico sono sotto l'1%. Ma caspita! Ma è allucinante, cioè, però. Non fa neanche parte della formazione del medico, e questo crea dei problemi. È l'unica cosa certa che abbiamo di questa vita, che moriremo. Certo, ma il consumismo lo impone, perché se uno pensa che la propria vita ha un limite, non la butta via. Certo. E anche così viene inserita nel ciclo consumistico la vita stessa, un usa e getta. La morte impone una riflessione sul senso della vita e uno non la spreca. Ah, certo, ecco, fantastico. L'insegnamento, no? Memento mori. Cioè, la morte impone una riflessione sulla vita? Certamente, ma infatti il memento mori, che voi avete ricordato con quel bellissimo episodio in cui tra l'altro ha recitato il mio caro amico Carlo Monni, sì, ci ha frequentato, ci conosceva bene, che è morto di recente anche lui, ma questo tema del ricordo della morte era una tecnica meditativa di liberazione, permetteva di godere di ogni istante della vita fino in fondo. Certo. Perché se ti ricordi che muori, non la butti via la vita. Certo. Il famoso insegnamento sull'impermanenza del buddismo. Esattamente. Tutto impermanente. Una grande psicologa del francese tuttora viva, che è quella che ha accudito Mitterrand, sì, e lei lavora negli hospice, quindi vede morire gente ogni giorno, diceva proprio questa frase veramente impressionante: la sua meditazione costante sulla morte gli ha trasmesso un gusto intenso della vita e del piacere, una curiosità insaziabile, da lì attinta immensa energia. Così era anche per gli antichi. Ah, certo, fantastico. Senti, noi dopo nella trasmissione intervisteremo un tuo amico Franco Battiato, e quando l'ho sentito ieri per chiedergli se faceva una telefonica con noi oggi, gli abbiamo detto che ci saresti stato anche tu. Fa: ah, grande, forte Guido Alberto. Io ho visto una parte di un'intervista, di una chiacchiera che avete fatto voi due assieme. Che cosa vi unisce? Com'è stato l'incontro mistico fra te e Battiato, per esempio? Ma proprio l'idea che in un mondo occidentale un po' oppresso da una visione ristretta era necessario dare un'altra visione della vita e della morte, cioè presentare la morte non come l'opposto della vita, ma un passaggio della vita. Ah, certo. Ma gli animali che cosa ci possono insegnare su questo? O che cosa c'entrano, visto che è un tema a te caro, quello degli animali? Ma guarda, secondo me ci possono insegnare una cosa preziosissima, cioè che la morte è un evento naturale. Certo. Gli animali non lo vivono mai come un dramma, vivono con sofferenza al dolore e quindi rallegrando. Sì, però comunque il dolore fisico, quando magari nella malattia tutto, o addirittura se sono feriti dalla violenza dell'essere umano, però la morte per loro è un evento naturale, lo vivono come un succedersi naturale della vita. Se noi notiamo nella natura, il linguaggio evidente della natura è che la morte non esiste, per cui c'è l'inverno ma poi c'è la primavera, è un passaggio, che si tramonta poi risorge, è un passaggio, è un quindi ciclo. Esattamente. Tu sei certo, no, che c'è, che c'è, che una, c'è una continuazione per tutti quelli che ci hanno paura? E sapere che Rosita è un tema delicatissimo per lei, è un'estrema paura della morte. Sono certissimo, perché la natura ne parla incessantemente: il grano che cade morto e risorge moltiplicato, quindi non solo la morte non uccide la vita, ma la mette in condizione di moltiplicarsi, che il grano che muore, come dice il Vangelo, rigermoglia abbondante, cioè tante spighe. Ma fantastico. Guarda, io sono allora ti spiego, anch'io sono certissima, tant'è vero che ci sono delle volte che faccio degli esperimenti da sola a dire: vediamo se riesco a convincermi che non c'è niente dopo, e non ci riesco. non riesco a farla alla rovescia. Però ecco, io credo che una cosa importante, che un conto, perché questa è la difficoltà, no, di molte persone, sanno magari concettualmente che dopo c'è qualcosa, però gli manca un mezzo per portare questa cosa dalla testa al cuore, al e Guido Alberto mi sembra che usi la meditazione per questo. Esattamente, la pratica che utilizziamo con le persone che accompagniamo con la nostra associazione Tutto è Vita, perché attraverso l'esperienza del corpo, il respiro, la consapevolezza di sé, uno si accorge che intanto il respiro è qualcosa che ci supera, certo. La vita è dentro di noi e ci trascende, il battito cardiaco è dentro di noi, ci trascende, quindi la vita ci supera. Già sentire questo ci pone in un piano differente nella nostra esistenza. Allora, Guido Alberto, siamo arrivati purtroppo alla fine, qua dobbiamo richiamarlo. Davvero, Guido Alberto è veramente ospite fisso. Grazie infinite. Senti, grazie tante, ci vediamo e ci sentiamo presto. Grazie a voi, auguri per tutto. Grazie anche a te, un abbraccio grande. E ci vediamo tra poco dopo le informazioni sul traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate. Grande Massimo Troisi, come mi manca, come manca tutta l'Italia sicuramente. Allora, come vi abbiamo già detto, oggi si parlerà della morte, ma voglio dire, forse l'unica esorcizzandola, cosa... essendo consapevoli, se vuoi anche con un po' di umorismo, però siccome è un tema molto forte, è l'unica certezza che abbiamo nella vita di tutti, e allora tanto vale avere le palle, no, e dire ok, parliamone e capiamo di che cosa stiamo appunto parlando, e prepariamoci anche ad affrontarla con, insomma ne parliamo. vediamo in tutti. Ma allora, un'altra telefonata importante oggi ce l'abbiamo con Stefano Cattinelli, che è medico veterinario omeopata e anche scrittore e autore di diversi libri, tra cui Tenersi per zampa fino alla fine. Noi l'avevamo già sentito quest'estate, se vi ricordate. E quindi parliamo del tema dell'eutanasia o della non eutanasia con un esperto di questo campo. Buongiorno Stefano. Buongiorno a ciao, tutti Stefano. Gli ascoltatori. Ciao. Senti, una delle cose che mi capita, che capita sicuramente anche a Angelo e anche a te, le persone che ci chiedono quando è giusto, quando sai che il tuo cane o il tuo gatto sta male e sai che è il percorso inevitabile verso la morte, per farlo soffrire meno, quando è giusta l'eutanasia, quando no. Ci sono diverse correnti, se, sì, e strade, esatto. No? Se è giusta, quando è giusta. Perché io vi dico, apro solo una parentesi, purtroppo tanti anni fa la mia prima barboncina le ho fatto l'eutanasia, stava malissimo, cioè sarebbe morta da lì a poche settimane, 2 o 3 settimane, ma ti giuro, con quell'esperienza lì ho detto che ho chiuso, non la farò mai, piuttosto vorrei avere la possibilità di scegliere un percorso d'accompagnamento. Ma anche perché sai cosa, Stefano? Oggi ho visto delle foto di un cane che si chiama Duke Robinson, e un fotografo gli ha fatto le foto nel suo ultimo giorno di vita. È un cane che non stava benissimo, era senza una zampa probabilmente, quindi affetto da un tumore, adesso io non so bene la storia, però stava bene, l'hanno portato all'acquapark, gli hanno fatto fare delle cose belle e poi in quello stesso giorno l'hanno soppresso. Seguendo i tuoi insegnamenti, cioè quello che io ho letto nel libro Tenersi per zampa fino alla fine, amici fino in fondo, mi sembrava porre fine alle eventuali sofferenze di questo cane in modo prematuro. Sì, l'episodio, diciamo, nello specifico non lo conosco. Diciamo che io sono tanti anni che mi sono trovato da doverlo affrontare questo argomento, sì, come veterinario, perché poi alla fine siamo noi sì, veterinari che materialmente, tecnicamente lo ammazziamo gli animali. No, è un termine un po' forte, però è quello che è. No, e quindi ero per primo io che a un certo punto mi sono domandato qual era il senso della mia professione, del mio essere vicino all'animale e come poter trasformare questo momento di difficoltà. Mm-hmm. Questo, diciamo, è un punto secondo me molto importante, no? Cioè sottolineare il fatto che oggettivamente la persona non è abituata a confrontarsi con un evento del genere, sì. La nostra cultura tende ad allontanare molto questa sì, esperienza. Sì. È quello che stiamo cercando di fare con questa puntata, è proprio questo, no? Si tende a non parlarne, a far finta a non di nulla. Parlare. Sì, e quindi arriva lì, in quel momento lì, assolutamente non solo impreparata, ma anche emozionalmente molto provata, esatto. Perché con l'animale si chiude un ciclo, sparisce una fetta dell'esistenza di quella persona e quindi c'è un carico emozionale, affettivo potentissimo e io mi sono sempre trovato delle persone in grandi difficoltà emozionali, però volevo proprio separare le cose, no? Un conto sono le difficoltà che la persona vive e un conto sono le difficoltà che l'animale vive. Certo, sì. In quel caso bisognerebbe pensare di dare la precedenza all'animale. Sì, io ho cercato sempre di, come dire, portare la persona all'attenzione e gli ho sempre detto ma segui, proviamo a seguire l'animale, è un cambio di ruolo. Uh-huh. Proprio come, perché bene o male la persona è sempre stata abituata a essere lui il punto di riferimento, sì. E quindi lui ha fatto delle scelte per l'animale e quindi era lui che guidava la vita dell'animale, sì. E in quel frangente io mi sono accorto invece che entrando come in questo mistero così di questa trasformazione fisica, spirituale se vogliamo, e l'animale ha come dentro di sé una saggezza che va in qualche modo che porta a essere una guida. Uh-huh, certo. Però ovviamente la persona deve essere in grado di saper reggere un po' questa esperienza, diventa un percorso. Sì, perché quello che normalmente io nella mia esperienza di istruttore cinofilo è che le persone scambiano, cioè proiettano la propria sofferenza sull'animale. Sì. Correggimi poi se sbaglio. Sì, e sì, quindi sì, questo sì, li porta a dire, siccome non sì, voglio più questa sofferenza, sì, allora faccio l'eutanasia. Oppure al contrario, siccome lo voglio tenere in vita il più possibile, perché l'idea della morte proprio non la sì, sopporto, certo, c'è l'accanimento all'accanimento terapeutico. Tu sì, potresti darci una differenza tra l'accanimento terapeutico, la via dell'eutanasia e la terza via che proponi tu insieme a Daniela Muggia in Tenersi per zampa fino alla fine? Sì, diciamo che tendenzialmente l'approccio da parte del veterinario il veterinario è il primo che è in difficoltà. Un veterinario frattente. Cosciente, perché poi diciamo. Ma sì, in generale, diciamo, all'università non si parla mai della morte, non è un argomento che si affronta. Quindi ci lasciano, diciamo, in balia delle nostre personali riflessioni, delle nostre personali esperienze, attitudini di terapeutiche, così. Diciamo che quello che è il meccanismo che ci viene messo dentro è che comunque noi dobbiamo sempre e comunque salvare l'animale. Sì, un po' come succede con l'uomo. Quindi addirittura quando l'animale muore, diciamo che professionalmente io la posso vivere anche come una sconfitta terapeutica. Sì. E quindi non come mi affronto una sconfitta? E quindi elimino più rapidamente possibile questa esperienza interiore di sconfitta. Quindi è completamente diverso quello che proponiamo io alla Daniela e io professionalmente già da tanti anni, perché diciamo ci si rende conto che si è di fronte a malattie croniche o animali anziani, ci si rende conto, cioè si percepisce la realtà oggettiva per quella che è, no? E quindi diciamo a un certo punto ci si rende conto che l'animale si sta consumando come una candelina. Sì. Quindi allora, per chi ci sta ascoltando, fra l'accanimento terapeutico, che è una via, e l'eutanasia, che è una seconda ipotesi, tu e Daniela proponete appunto questa terza via, che invece è il fatto di accompagnare l'animale cercando di farlo soffrire il meno possibile fino alla sua morte naturale, giusto? Sì, questo, diciamo, l'esperienza del dolore anche per noi è molto importante. Certo. No, perché non è possibile proporre un percorso dove in qualche modo è possibile che l'animale soffra, non sarebbe, come dire, consono, no? A una proposta alternativa. E quindi, diciamo, in quel senso, dal punto di vista della gestione del dolore, esistono le cure palliative. Okay. Ecco, questo sai che è un punto importante anche te, Rosita, perché a volte quando sentiamo parlare di cure palliative, uno pensa che è una cosa che non serve. Cioè, sì, già certo. Che ci sei, e invece non è questo il significato. Esatto. Vuoi chiarirlo, per favore, Stefano? Sì, la cura palliativa è praticamente è come per riconoscere che l'animale ha dei disagi. Sì. Possono essere di qualunque tipo, diciamo, il dolore ha una scala di valore, no? Quindi può essere dei disagi fisici o anche arrivare proprio a dei dolori reali, e le cure palliative migliorano la qualità della vita in quell'esperienza, però senza avere una tensione di guarigione. Certo. Senza avere una tensione che salvo l'animale. No, io mi rendo conto che questa è la situazione e cerco che la sua qualità della vita in quella situazione sia migliore possibile. Senti Stefano, io volevo chiederti anche una cosa, ma esistono fra anche i veterinari gli obiettori di coscienza come i medici degli uomini? Allora, è un po' difficile perché mi sono trovato anch'io in questa situazione, l'ho praticata per qualche tempo all'inizio, perché non, dentro di me non riuscivo più a fare quest'atto. Poi ho capito che se io obiettavo e quindi mi rifiutavo, la persona andava da un altro veterinario. Semplicemente. Non c'era la possibilità di interazione, come se attraverso l'obiezione io mi tirassi fuori dall'esperienza, e quindi ho detto no. Conviene stare dentro l'esperienza con il mio ruolo e coinvolgere attivamente la persona dentro questo percorso, perché poi l'animale è il suo, non è, quindi è veramente un pezzo di vita. Io spero che adesso succeda al contrario, che quando i veterinari dicono ma no, facciamogli la puntura, l'eutanasia, vengano di più adesso dai veterinari che usano la terza via come te. Non ce ne sono tantissimi, non perché sono tanti. È una proposta innovativa a livello italiano e quindi non ce ne sono. Guarda, secondo me anche perché la gente non lo sa, perché certo, io nel mio certo. piccolo ora incominciano a associarmi, vedono un cane, anche chi mi segue non mi conosce personalmente, chi mi conosce personalmente invece inizia a prendermi come punto di riferimento dicendo vediamo se Rosita sa qualcosa che a me è sfuggito. Quindi secondo me ce ne sono pochi di veterinari così, Stefano, perché secondo me non si sapeva che c'era questa terza via, capito? No, certo. Allora, noi dobbiamo purtroppo interrompere per mandare la pubblicità, ma tra poco parleremo con Stefano Cattinelli degli esempi di cure palliative, perché la gente vuole sapere anche quindi in pratica che cosa devo fare. A tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupate. Noi ve lo facciamo come tormentone oggi al rientro da ogni break, perché giustamente ci dobbiamo ricordare tutti, se sia mai che qualcuno se lo scordi. No, ma sai, poi vedi la genialità di Troisi, cioè lui prende un argomento come questo di cui stiamo dicendo, no? Fin dall'inizio della puntata, noi evitiamo di parlare, cioè, e lo dissacra. Mo me lo segno. Lo esorcizza in questa cosa qua. Cosa che deve morire, come? mo me lo segno. Stefano Cattinelli in linea, sono ricordiamo, sempre... medico veterinario omeopata. Scrittore di libri, ha scritto recentemente Tenersi per zampa fino alla fine, che parla proprio di come accompagnare in questo percorso così delicato i nostri amici a quattro zampe. Quindi stavamo parlando di cure palliative, cioè invece di accanirci terapeuticamente, invece di badare subito all'eutanasia per mettere fine alla nostra sofferenza, c'è una terza via che è quella della desistenza terapeutica, di cui parleremo tra poco, e dell'accompagnamento, delle cure palliative, no? E quindi noi ci stavamo chiedendo poco fa, ma queste cure palliative, vogliamo fare degli esempi, cioè, Stefano Cattinelli, in cosa che consistono? Cosa... Sì. Allora, diciamo che innanzitutto bisogna dire una cosa, che l'omeopatia mi ha insegnato e mi ha formato a vedere ogni paziente come un caso a sé. Certo. Quindi non generalizzare. No, è proprio quello che si chiamano così i protocolli, come possono essere definiti. Lasciano un po' così il tempo che trovano, no? Perché veramente ogni caso ci si trova di fronte a una ricchezza di mondi, di esperienze, di collegamenti emozionali, di proiezioni, perché la persona magari ha fatto entrare nella sua vita un animale per un senso specifico, un momento di difficoltà, quindi l'animale di per sé incarna proprio un'esperienza interiore per quella persona molto forte e quindi io mi trovo, ci si trova di fronte a esperienze sempre diverse, quindi di volta in volta si cerca si valuta la situazione. Io, essendo omeopata, uso molti rimedi omeopatici che hanno una valenza terapeutica anche molto importante. E dopo ovviamente ci sono i farmaci chimici, i classici, fino ai morfinici, è un po', diciamo, preso dalla medicina umana. Io più passa il tempo e più mi rendo conto che quello che si dice legato ai cani è esattamente, vale per tutti, vale per noi esseri umani, perché di base io non, cioè, questo argomento si tratta anche verso le persone, no? C'è chi vorrebbe l'eutanasia per le persone, per gli esseri umani, e chi invece è totalmente contro. Poi lì c'è la religione, che ovviamente dà una grossa influenza. Quindi cura palliativa significa allevio il dolore, e questo sì, è lo scopo. Sì, esatto. Diciamo, mi cerco di migliorare la situazione, la qualità della vita dell'animale, e nella consapevolezza che l'animale la mia azione terapeutica non lo porta a guarigione. No, certo, se il percorso è quello. E quindi anche all'interno delle terapie che magari prima stava facendo, io faccio una scelta di cosa tenere, cosa non tenere, come aiutarlo, come non aiutarlo. Senti, io spero veramente che molte persone facciano fede di quello che hai detto, perché è un'informazione importantissima. Intanto ti ringraziamo ancora una volta di essere stato con noi. Io ringrazio voi. Grazie mille, Stefano Cattinelli. E ci sentiamo sicuramente, capiterà un'altra occasione dove potremo fare altre chiacchiere interessanti. Volentieri. Ciao Stefano. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Che poi la cosa che pensavo io, ci sono dei veterinari che adesso io sarò maligna, ma mi dà l'idea che la facciano facile. A me è capitato personalmente che mi dicono: ma magari sta male, sta morendo, fagli la puntura. Io invece dilungavo. No? Stefano Cattinelli, che è il veterinario, spesso per la sua formazione è lasciato solo di fronte a questo tema di cui non parla nessuno, non si tratta in università, e quindi anche per porre fine al suo modo di percepire la morte, come se sofferente, può essere percepito come un fallimento, dice il veterinario. Poi c'è il privato, che invece non vuole il cane bello, attivo, pimpante, cose, poi non ha voglia di prendersi cura, perché ovviamente ci vuole a dedizione anche in questo, e magari dice: vabbè, sta soffrendo, facciamolo abbattere, che così ha meno rogna. Sai, abbiamo parlato poco fa di cure palliative. Yes. Abbiamo in linea una amica amica che fa pet therapy, quindi con gli animali aiuta le persone nei loro percorsi, che si occupa di cure palliative nell'assistenza anche ai malati morenti terminali. Abbiamo con noi Monica Varesi. Ciao Monica. Ciao Angelo, ciao Rosita. Ciao Monica, buongiorno. Come stai? Bene, bene, benissimo, sì, allora, grazie. Ci hai raccontato tante volte di episodi straordinari, strani anche, che accadono agli animali. L'ultima volta, mercoledì scorso, che ci siamo visti per meditare assieme, mi ridici quella cosa che hai, che ci hai raccontato dei tuoi cani, che sta succedendo? Sì. Sì, volentieri. Allora, io premetto che lavoro in hospice al Bassini con tre cani, ma i cani di cui vi parlo sono soltanto due, perché l'altra, la terza, non ha questo tipo di comportamento. Quindi parliamo di Miracle e Spirit. Sono due cani che lavorano con me da che già i nomi, scusa Monica, già i nomi Miracle e Spirit, voglio dire, cioè sono stati un nome, una garanzia. Sì, è vero, è vero. Miracle adesso ha 9 anni, quando l'ho presa non pensavo di lavorare con lei in hospice, l'avevo presa per lavorare con i bambini, quindi il nome è stato soltanto un caso, direi, no? Non, vabbè, comunque. Tutte e due, Miracle ha 9 anni e Spirit quanti anni ha? Spirit ne ha 3. Okay. Sono tutti e due border collie biondi. Esatto, io li chiamo i giallini, siccome ne ho 3, l'altra è bianca e nera, e quindi io loro li chiamo i giallini, e Arta invece è la bianca e nera, e la chiamiamo tutti Arta, e anche in ospedale i pazienti li chiamano i giallini, perché ormai sono diventati famosi per questo. Allora, a proposito di cure palliative, che cosa succede? Parlo di... parecchi anni fa, quindi Spirit non era ancora nato, quando Miracle già lavorava con i malati terminali, e ci siamo accorte, io la psicologa per caso, che Miracle si posizionava nella stanza in alcuni casi in una si localizzava in un luogo anomalo per lei, perché di solito lei ama controllare la situazione, ma in parecchi casi ci siamo accorte che Miracle si posizionava, pur arrivandoci molto, ma molto, in modo scomodo e con molte difficoltà, dietro il letto. Ma del paziente? Del paziente, sì, sotto la testa. Cioè proprio al centro del letto. Se il paziente per caso cadeva di fianco, perché era sicuramente in uno stato di sedazione, quindi può essere che magari perdesse un attimo l'equilibrio, il cane si spostava e stava esattamente sotto la testa. Allora, la prima volta abbiamo detto, beh sì, sarà un caso. Certo. Perché per arrivare in questo posto dietro il letto doveva comunque fare un percorso abbastanza difficile, per cui attraversare macchinari e mettersi in uno spazio molto ristretto per il suo corpo. Ci siamo accorte che questa cosa lei, la prima volta abbiamo appunto pensato è un caso, in realtà praticamente una settimana dopo ha riproposto lo stesso atteggiamento. E abbiamo fatto una considerazione. La settimana prima, quando si è posizionata per la prima volta in quel, in quel luogo, il paziente è morto poche ore dopo. E la stessa cosa è successa la settimana contro dopo. Contro le vostre previsioni, cioè voi non avevate previsto che sarebbe morto di lì a qualche ora? No, cioè... No, adesso sono anni che lei presenta questo atteggiamento ogni volta che un paziente sta lasciando questa vita, e per noi è diventato normale. Cioè, quando vediamo Miracle che si posiziona in quella parte della camera, noi sappiamo, ci guardiamo negli occhi e, sapete che sappiamo, è arrivata la fine. Esatto, e sappiamo che è arrivata la fine. Non so il perché, ma la cosa molto simpatica, tra virgolette, è che questo atteggiamento lo ha presentato Spirit. Certo. Anni dopo, ma nessuno gliel'ha mai spiegato ovviamente. Certo. E è ancora più significativo perché io quando i due cani fanno questa cosa, che non so che cos'è, perché secondo me, allora io da profana direi, posso pensare che questo è un atteggiamento di protezione, di guardiani, aiutano, questa sensazione. Esatto, ho questa sensazione, però non lo so, perché nessuno lo sa. Sai, in questo momento noi sappiamo che dobbiamo fare attenzione a quello che ci dice la scienza, però è un momento di riflessione questo per noi in radio, per cui la riflessione ci porta anche a chiederci che cosa ci sia nell'aldilà. E il fatto che tu abbia la sensazione che i cani si pongano come a guardiani di questa porta è interessante. Però volevo farti un'altra domanda: la tua psicologa ha rilevato delle differenze con e senza i cani nell'accompagnamento dei malati terminali? Cioè, che differenza fa il cane per una persona che, come succederà purtroppo a tutti, a un certo punto sta lasciando il suo corpo? Allora, la psicologa ha assolutamente rilevato questa differenza, tanto è vero che quando un paziente viene dichiarato dalla medicina in fase terminale, parlo di poche ore, la psicologa chiede a me di intervenire con i cani. È successo ieri, sono andata nella stanza di questa signora con Miracle, questa signora probabilmente in questo momento non ci sarà più, ho fatto salire Miracle sul letto. La signora era assolutamente in stato sedativo, non poteva assolutamente rispondere a nessuna richiesta, e nello stesso momento in cui abbiamo accompagnato la sua mano attraverso per accarezzare il cane, la signora ha fatto un sospiro e io ovviamente sono rimasta molto colpita da questa cosa. E sì, la psicologa vuole assolutamente che io, quando ci sono queste situazioni molto particolari, porti il cane nella stanza, perché ormai sono anni che lavoro in hospice e abbiamo compreso che la persona che viene a contatto con il cane in quel momento molto particolare e difficile della loro vita, comunque ha un'emozione sicuramente positiva. Sì, ti alleggerisce il passaggio, no? Non ti fa sentire solo, suppongo. Ma lo sappiamo anche ti fa tramite proprio. Archeologici, per esempio, che diverse persone sceglievano di farsi seppellire insieme al loro cane. Il cane sembra che sia sempre questa guida nel mondo dell'aldilà. Anch'io vorrei. Però stiamo imparando delle cose da Monica, che tra poco purtroppo dobbiamo salutare perché abbiamo il maestro in linea. E quindi quello che noi abbiamo imparato è che la sua cagnolina riesce a prevedere quando è il momento, no, così delicato della morte, prima delle persone, prima dei medici, lo sa per qualche modo. Si posiziona in una posizione particolare. Questo è interessante, che i malati terminali che sono accompagnati in questa fase delicata della loro vita dai cani ne traggono un grande beneficio. Quindi si può fare questa cosa. Certo, qui. Assolutamente. Senti, grazie Monica. Monica Varesi, grazie. Preziosa e dolcissima. Pet Therapy. Grazie a voi. Grazie infinito. Un abbraccio, a presto. Buona giornata. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. E adesso ci sta il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 1212. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E stiamo scoprendo che parlando della morte si diventa anche più felici in vita. Sì, adesso abbiamo una personalità, una delle personalità più imponenti del panorama musicale italiano. È compositore, cantautore, ha fatto sognare e commuovere con le sue canzoni. Regista. E aggiungerei mistico. È con noi a Chiedimi se sono felice il maestro Franco Battiato. Buongiorno. Franco. Ti ringrazio, ma non chiamarmi maestro, ti prego. Ecco. Ma guarda, guardi, allora il punto è che lo so, però è talmente tanta l'ammirazione che uno ha per lei che è veramente difficile evitarla questa cosa qua. davvero. Vabbè, Franco, io sono un pochino più spudorata, invece ti do del tu. Allora, in questa puntata così speciale, io dicevo a Rosita: senti, ma noi abbiamo Franco Battiato, è appena uscito il suo libro con DVD che si chiama Attraversando il Bardo, sguardi sull'aldilà, edito da Bompiani. Allora, è una persona che noi dobbiamo assolutamente sentire, la radio, la musica e questi insegnamenti. Allora, Rosita, il cui tema io ho il terrore della morte, Franco, sono terrorizzata. Allora, da chiederti qualche consiglio. Non so se sì, però non si può avere, non bisogna averla. Perché in realtà, quando arriva il momento cruciale, è più giusto, secondo me, Rosita, tu ti documenti un po' sul passaggio. Sì, mi documento tantissimo, sono anche una credente, quindi io credo che dopo ci sia il paradiso, veramente, che insomma, e credo un po' nell'inferno, purgatorio e paradiso di Dante, non è che mi allontano tanto da lì, eh? Un po' così c'è, perché attraversando il bardo è un po' anche la versione del buddismo tibetano. Sì, ho visto. E quindi i più grandi mistici in questo momento sono loro. Sì, eh? Sì. Vedi, glielo sto dicendo. Però abbiamo anche una letteratura straordinaria alle spalle. Infatti noi abbiamo... proprio specialmente quella cattolica. Ma sì. Senti, ma tu personalmente che rapporto hai con la morte? Perché sai, è un argomento di cui non si parla mai nel mondo, credo che sia uno degli argomenti che uno vorrebbe sempre accantonare, come se non esistesse, c'è difficoltà a parlarne. Invece una delle cose che tu dici, e ho visto anche quel passaggio con Guidalberto Bormolini, abbiamo dove... intervistato oggi. Sì, infatti, che abbiamo intervistato prima di te oggi pomeriggio, stamattina. Siamo molto amici, lo sai. Lo so, ho visto, una persona eccezionale anche. Beh, ma fra persone eccezionali ovviamente ci si attrae. No, dicevo, sì, è vero. Voi parlate anche del fatto che ci si debba preparare a questo evento. Tu che rapporto certo hai con la morte? Sì. Certo che sì, anzitutto se tu cominci a lavorare su certi libri, no? Sì. In cui i personaggi che lo scrivono sanno bene che fuori dalla materia nostra, quindi il corpo va a finire, non posso dire cose volgari, no, comunque, vabbè. Sottoterra. Comunque è così, ecco, esattamente. Io per esempio mi farò cremare da mia nipote, ecco, anch'io gliel'ho detto. Anch'io sono... Allora, l'anima è determinante. È certo. Nella canzone che poi mi auguro ascolterete. Assolutamente sì. Sono proprio le anime che hanno bisogno di altri corpi fuori dal contesto di quello. Poi è chiaro che se uno ha fatto una parto da zero, va sì, bene? Sì. E ti dico questo. Sì. Lama Mollam è uno dei più grandi tibetani. Sì, sì. Lama Mollam. Io l'ho intervistato negli anni '80. E a un certo punto, sai che c'era chi parlava in inglese, traduceva in tibetano, sì, eccetera, eccetera. No? Quindi io facevo la domanda e mi sono divertito a fargli questa domanda a bruciapelo, dicendo: senti, ma come trovi il tuo passaggio nell'aldilà? Sì. E lui ha detto: mi sono comportato bene e mi daranno un premio. Certo. Ecco, per dirti, fuori dall'argomento materia c'è l'anima. Certo. Dobbiamo capire questo. Ora, Battiato, uno per prepararsi a quel momento e per poterlo affrontare bene, l'unica cosa che deve fare è comportarsi bene in vita? Questo senz'altro. Uh-huh. Perché, per esempio, tu sei contro un politico, sì, a volte ti irritano, sì, a volte questi politici rubano e sono dei ladri. A volte. Sempre. Pur così, hai ragione, è così. Però, uno deve restare, perché a volte un delinquente che ha fatto cose terribili, magari prima di morire riesce ad avere un'apertura spirituale, potrebbe essere più importante di uno che va in chiesa, che snocciola il rosario. Certo. E poi si comporta male. Ecco, appunto, e poi si comporta male, esattamente. Predica bene e razzona male, in poche parole. Ecco, troppo facile. Tu dici, la liberazione non può avere legami né attaccamenti, quindi... Certo che no. Però come si fa nella vita di tutti i giorni? Io, per esempio, Angelo, sta qui sorridendo perché io sono una di quelle invece che vive di attaccamenti. Io le dico, non bisogna lavorare sugli attaccamenti. Lei dice, ma un po' di attaccamento è giusto. Un po' di attaccamento, come si fa a non averlo? Ma l'attaccamento non è, attenzione, non è che sia... la perdita di qualcosa, al contrario, si guadagna. La guadagni. Guarda, quando ci vedremo un giorno qui con voi due, perché penso che adesso dobbiamo quasi finire, no? Sì. Stiamo insieme una serata e vedrai che, avremo grande, belle cose da dirci. Sì. Guarda, volentieri. Intanto io, cioè, sai, c'è sempre da imparare attraverso le tue canzoni, attraverso adesso anche questo libro e questo DVD che hai fatto, perché tu sono tanti anni, quindi ti dispiace o ti piace il fatto? Tu sei buddista o sei un mistico? Cioè, perché uno magari non vuole un'etichetta. Come si definisce, no? Franco Battiato? È un buddista? Dunque, sono tutto. Scusa, sono tutto. Dico questo. Benissimo. No, è giusto. Dico questo, perché mi piace il cattolicesimo, mi piace il sufismo, mi piace il buddismo, è inutile, non posso negare. Appunto, perché è una meraviglia. Ma anche perché io ho notato, per esempio, io conosco Angelo, siamo assieme da 2 anni e lui sono 19 anni che pratica buddismo tibetano, però quando io gli ho detto allora tu sei buddista, Angelo mi diceva ma sai Rosita, in realtà tutte le religioni, se le leggi il cuore della religione, della filosofia religiosa, porta nella stessa direzione. Non è soltanto direzione. Quello, tornando al tema della morte, la cosa importante è lo stato che guadagni, ed è uno stato primordiale, particolare, che è oltre il concetto, ma quando sparisce il concetto sparisce anche la distinzione tra le religioni, non è più una questione di che cosa appartiene. Ecco qua, eccoci siamo al punto cruciale, no? Sì. Allora, per esempio, ti offro questo piccolo passaggio. Sì. Quando la terra si dissolverà nell'acqua e l'acqua nel fuoco, il fuoco nell'aria e l'aria nello spirito, saremo liberi dagli attaccamenti. E quindi, liberi dagli attaccamenti. Sono i 5 elementi. Buone cose. Grazie Franco. I 5 elementi. Un abbraccio a tutti. Grazie Franco Battiato. Hai il mio grazie numero, finita. Sentiamoci, ci vediamo quando vuoi. Noi siamo a tua disposizione. Grazie. Rosita, ciao. Grazie. Ciao. E allora Rosetta, qua ti ho sentita emozionata tanto, era uno dei tuoi miti. È uno dei miei miti, io sono cresciuta con lui, so tutte le sue canzoni a memoria. Poi La Cura è stata la canzone che c'ha, una delle prime cose che abbiamo trovato. La Cura la dedichi a chi ami, insomma, La Cura, sì, io speravo di trovare una persona così. Beh, senti che roba, ci la potrei sentire all'infinito, mi commuove. Allora, oggi è stata una puntata meravigliosa, devo dire. Speciale. Abbiamo parlato di un tema fantastico. Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Noi leggiamo tutte le vostre mail, cercheremo di rispondere il più presto possibile. E ora vi lasciamo sulle note. Alla di prossima, Franco, prossima domenica alle ore 12 con Rosetta Celentano e Angelo Vaira su Radio 24. E ascoltate tutta la domenica perché ci sono programmi fantastici su Radio 24. L'altra domenica in radio. Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie.